Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati all'appuntamento con la cronaca su Radio 24, le storie, i fatti, i personaggi che ci parlano dell'Italia in controluce. Oggi parliamo di un appuntamento. Da domani, 23 settembre, a domenica 25, a Firenze si parla di energia, o meglio sarebbe dire di energie alternative, rinnovabili, tradizionali o intelligenti. Proprio queste saranno al centro, infatti, dell'edizione di quest'anno del Festival Energie Spiegate di Firenze. Energie intelligenti perché ci fanno risparmiare l'ambiente e il portafogli. Ce ne parla Cristina Carpinelli. Il tema dell'energia è portante per governi e industrie, influenza le società ed è all'ordine del giorno di paesi industrializzati ed emergenti. L'aumento dei prezzi dell'energia, la crescente dipendenza dalle importazioni ha obbligato, ad esempio, l'Unione Europea, cioè uno dei mercati di importazione energetica più importante al mondo, con oltre 500 milioni di consumatori, ad approvare Energia 2020, un pacchetto di provvedimenti ambiziosi rivolti in buona parte al mercato delle rinnovabili. Il tema è dunque sentito anche quando si parla di riduzione delle emissioni e di mitigare i cambiamenti climatici. Nasce con questo spirito l'Energia Spiegata Festival dell'Energia, una piazza, quella fiorentina, che dal 23 al 25 settembre promuoverà dibattiti, idee, eventi, incontri per condividere i saperi della scienza. Quest'anno il tema del festival sarà l'energia intelligente. Ma che cos'è l'energia intelligente? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Boelke, presidente di ARIS, Agenzia di Ricerca, Informazione e Società, cioè l'associazione che organizza ogni anno il festival. Energia intelligente significa proprio l'origine della parola, intelligere, quindi leggere dentro. C'è bisogno nel mercato, nel settore dell'energia, di capire quali possono essere i passi da fare da oggi in poi per riuscire a produrre energia in maniera sempre più efficiente e con un impatto sulla sostenibilità ambientale che sia sempre migliore. Il Festival dell'Energia nasce con l'idea di fare comunicazione su un tema che è già importante. Non l'abbiamo deciso noi, questo è un tema molto importante, molto sentito. Basta aprire le pagine dei giornali per comprendere quanto di energia si parli dietro a moltissimi altri argomenti. Se vediamo ciò che sta accadendo in Nord Africa e quindi la cosiddetta primavera araba e quindi quanto l'energia sia importante nel contesto della geopolitica, ma un tema molto importante è quello dell'efficienza energetica, quindi non solo e non tanto i nuovi modelli per produrre energia, quanto nuovi modelli per organizzare meglio, quindi rendere più efficiente l'energia in determinati contesti. Si parlerà molto per esempio di smart city. Il concetto di smart city è un concetto molto importante. Noi sappiamo che le città, quindi gli agglomerati urbani dove vivono milioni di persone, sono delle organizzazioni molto complesse dal punto di vista energetico, sono delle strutture energivore nel vero senso della parola. Organizzare meglio queste strutture, quindi magari dotando le città di una mobilità sostenibile, dotando le città di sistemi di produzione, di autoproduzione di energia, e questo potrebbe avere un impatto assolutamente formidabile non solo per la collettività che vive all'interno delle città, ma per una collettività molto più ampia. Il tema energetico riguarda anche e forse in modo determinante i paesi in via di sviluppo. Sono molte ormai le storie di energia alternativa utilizzata in Africa e America Latina, ma sono ancora troppe le persone costrette a vivere senza energia elettrica. Si parla di quasi un quarto della popolazione mondiale. Circa 2 miliardi di persone, per la maggior parte nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, vivono dunque senza elettricità. Significa, giusto per farvi un esempio a caso, non avere a disposizione cure mediche adeguate. La produzione di energia rinnovabile nei paesi in via di sviluppo può svolgere un ruolo anche nella riduzione del riscaldamento globale. Secondo molti studi compiuti negli anni, si stima che maggiori investimenti in energie rinnovabili potrebbero ridurre del 20% le emissioni di anidride carbonica. Insomma, il tema è caldo e riguarda tutti noi. Come colmare questo divario? La domanda è complicata e la giriamo a Alicia Casamassima di Coopi, che si occupa proprio di questo tema? Così, è decisamente una domanda complicata, perché le problematiche che stanno alla base del fatto che 1.800.000 persone, quindi quasi 2 miliardi di persone, non hanno accesso all'energia è quanto complesso. Diciamo che sicuramente mancano le tecnologie, mancano le infrastrutture e soprattutto sia l'una che l'altra sono molto costose, quindi mancano i capitali per far fronte al problema dell'accesso all'energia. E soprattutto in questi paesi molto spesso non c'è interesse da parte delle aziende ad investire, perché sono paesi molto poveri. Per questo noi crediamo che possa essere anche compito della cooperazione quello di intervenire nel settore. Dottoressa Casamassima, che tipo di progetti COPI sta sviluppando e dove? Abbiamo in realtà due progetti che sono appena partiti, uno in Malawi, l'altro in Etiopia, di energy facility, quindi specifici. L'esperienza più grande di COPI nel settore dell'energia, come settore specifico, ce l'ha in Bolivia, dove abbiamo lavorato fin dagli anni 90 per la costruzione e la riabilitazione di una centrale idroelettrica e la costruzione di un'altra centrale idroelettrica, e dove appunto abbiamo lavorato per elettrificare tutta una regione a 4.000 metri di altezza a Kami, portando energia, ora circa 2.000 kilowatt di energia in 37 chilometri di rete elettrica, dove abbiamo collaborato anche con Terna, e questa sarà una partnership che portiamo, diciamo, all'attenzione del pubblico del Festival dell'Energia come nostra best practice, perché i dipendenti di Terna ci hanno aiutato fisicamente a tirare i cavi elettrici, ma soprattutto hanno fatto formazione, training on the job ad un gruppo locale, per cui abbiamo ora un'equipe boliviana che è in grado di portare avanti i lavori. Che tipo di filosofia avete voi di COPI nell'affrontare il tema energetico nei vari paesi? Di cercare il più possibile innanzitutto di promuovere fonti di energie rinnovabili. Questo è importante da dire, perché comunque circa 3 miliardi di persone ancora ricorrono sostanzialmente alle biomasse. Energia come risparmio, efficienza, recupero di centrali già presenti. E questo dunque il significato di energia intelligente, come ci spiega anche Adolfo Spaziani, direttore generale di Federutility, che è la federazione che riunisce le aziende di servizi pubblici locali dei settori idrico ed energetico e le rappresenta negli organi governativi nazionali, europei, mondiali. Associa 419 imprese. L'osservatorio di Federutility dunque ci permette di capire che cosa sognino i comuni italiani quando si parla di energia. Sentiamo allora Adolfo Spaziani. I comuni, soprattutto quelli nelle aree metropolitane, hanno intanto proprio loro una prima responsabilità, quella di gestire tutti questi servizi nel modo più efficiente possibile. Quindi il primo problema è l'impegno, un impegno che è a 360 gradi, perché parte da come vengono costruite le abitazioni, al modo con il quale si gestisce il trasporto, al modo con il quale naturalmente si utilizzano i riscaldamenti. Per esempio, c'è un grande impegno da parte dei comuni, soprattutto del nord, sulla questione del teleriscaldamento urbano, quindi delle rinnovabili termiche peraltro. Quindi ci sono veramente grandi obiettivi. Per quanto riguarda naturalmente l'aspetto più generale, quello mondiale, perché naturalmente su questo l'apporto diretto da parte dei comuni naturalmente non è così rilevante, se non nelle buone pratiche che possono essere diffuse, però non c'è dubbio, per esempio, se posso fare una deviazione, che alla luce di quello che è accaduto nella parte nel Nord Africa, di quello che sta accadendo in molti paesi emergenti, c'è davvero un impegno dell'Italia verso questi paesi affinché si possano sviluppare l'utilizzo di certe fonti, in particolare di quelle rinnovabili, cercare di ampliare i collegamenti tra il sistema Italia e il sistema di altri paesi del Mediterraneo. Quindi ci sono grandi opportunità che naturalmente possono essere colte. Naturalmente per fare questo ci vorrebbe un impegno del sistema Italia, che purtroppo in questo momento vediamo non andare avanti in modo concreto. Se penso all'obbrobrio della Robin Tax che ha riguardato le reti di distribuzione, significa che evidentemente non tutti la pensiamo allo stesso modo. Ed è tutto anche per questa puntata. Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Vi ricordo che potete iscriverci per commentare i servizi che sono andati in onda o per raccontarci le vostre storie. Controluce@radio24.it. Buona giornata.